se un marchese si inginocchia, lo potrete ricusar. Ne sorgete che ti allungo, non mi posso far pregar, non mi posso far pregar. Quel che è stato, stato sia, che il passato non si sia.